piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di Formula 1 e quindi parliamo di vittorie, di adrenalina, di velocità, ma parliamo anche di paura, di dolore, ahimè anche di morte. La Formula 1 è sempre stata uno sport avvincente che ha raccolto attorno a sé milioni di appassionati e che ha pagato però questo tributo salatissimo, e il fatto di dover spesso anche celebrare degli eroi che hanno lasciato il palcoscenico della vita un po' troppo presto. E oggi parliamo proprio di uno di questi eroi, un esempio per tutti i piloti, un campione che è diventato una leggenda per il suo popolo, il popolo brasiliano, e che però ha vissuto una breve e meravigliosa parabola di vita che si è interrotta in un caldo pomeriggio di maggio a Imola, in uno dei weekend più tragici della storia della Formula 1. Lì è finita la favola ed è iniziata la leggenda di Ayrton Senna. E partiamo da San Paolo. San Paolo è una delle città più popolose del Brasile, una megalopoli. Io ci ho fatto un bel po' di concerti a San Paolo e la prima cosa che noti quando sei in quella città è la disparità, due realtà diverse, le ville dei signori, di quelli coi soldi, con magari la torretta con un uomo con il fucile puntato verso l'ingresso, le guardie del corpo, e queste ville dalle quali si vedono le favelas con le baracche addossate l'una all'altra. E io, che sono un curioso, sono stato sia nelle ville che nelle favelas, i quartieri dei grattacieli dove abitano le persone facoltose e i quartieri dei disperati. Ayrton Senna da Silva è nato a San Paolo dalla parte giusta, famiglia ricca, lui che non ha mai dovuto combattere per strada come i suoi coetanei, buone scuole, buoni vestiti, la possibilità di scegliersi una vita da fare. Tra le cose che Ayrton che ama fare quando è bambino ci sono le corse di kart. Il padre Milton e la madre Neide lo assecondano, lo incoraggiano. Lui è del 1960, quindi nel 73, a soli 13 anni, corre già con la sicurezza di un adulto. Vince sempre in tutte le gare e mette davanti a tutti il suo casco con i colori del Brasile. Ho conosciuto Ayrton quando ancora era un pilota di go-kart. All'epoca disegnavo caschi per Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Lui voleva un casco con dei colori che lo identificassero sempre. E allora feci un casco completamente giallo con due strisce, una verde e una blu, che davano un senso di movimento e aggressività. Usai i colori della bandiera del Brasile e quando Ayrton lo vide, decise di utilizzare per sempre quel casco come emblema. E queste sono le parole di Sid Mosca, il designer che aveva creato l'inconfondibile casco di Ayrton Senna. Oggi è un simbolo e per Senna ha rappresentato il legame stretto che lui aveva con il suo paese, un paese che lui lascia nell'80, quando, dopo aver vinto tanto nel mondo dei kart, si trasferisce in Inghilterra e insegue il suo sogno, il sogno di correre in Formula 1. E il trasferimento in Europa porta con sé quella che noi definiamo la saudade, no? L'abbiamo sentito dire tante volte sui calciatori, cioè il Brasile evidentemente è una terra dalla quale è difficile staccarsi, però la passione per le corse, per il ragazzo, per questo ragazzo Ayrton, è tale che lui riesce a superare questo ostacolo, anche perché arrivano le prime vittorie, Formula Ford, Formula 3, poi nell'83 c'è il primo contatto con un'auto di Formula 1 ed è un incontro sorprendente. Frank Williams sta tenendo d'occhio da tempo questo ragazzo, questo talento brasiliano che in Formula 3 vince così tanto. A Donington gli mette a disposizione una macchina. Senna in 21 giri stabilisce il nuovo record della pista, abbassa il limite di oltre un secondo. Williams però ha già i suoi piloti, i due si salutano con un profetico arrivederci. Alla fine di quell'anno, intanto, per Senna arriva il primo ingaggio in Formula 1. La casa è la Toleman, una scuderia minore, però l'importante è cominciare. E il primo colpo d'ala di Ayrton Senna arriva il 3 giugno 1984. Siamo a Monaco, Gran Premio di Monaco, un weekend di pioggia, e lui guida la sua Toleman con una sicurezza che sorprende tutti, comincia a superare gli avversari, e a Monaco non è facile fare i sorpassi. Passa anche Niki Lauda, arriva secondo e sta guadagnando terreno su Alan Prost che è in testa. Poi viene esposta la bandiera rossa, poi la nera, poi quella a scacchi, momenti di confusione, succede, Senna supera Prost che è fermo sulla linea del traguardo, pensa di aver vinto, fa il giro di pista con il braccio alzato e poi invece si renderà conto di essere solo secondo, però è il primo vero duello con Prost, è un punto di svolta profetico direi nella carriera di Senna, perché lui ha capito che Prost è il più forte e da quel momento le sue gare saranno finalizzate a osservarlo, a osservare quel pilota francese che è per lui già l'uomo da battere. Nel 1985 Ayrton Senna cambia scuderia e arriva alla Lotus, una casa storica, la casa di Jim Clark. Non è ai vertici la Lotus, ma è pur sempre un marchio leggendario. Comunque cominciamo a essere competitivi, lui fa capire subito a tutti che il suo obiettivo è vincere. In Portogallo, il secondo Gran Premio della stagione, lui conquista la pole position e poi la sua prima vittoria in Formula 1, doppiando tutti gli altri piloti tranne Alboreto che arriva secondo. La stampa comincia a parlare di questo nuovo astro di Senna e si cominciano a fare paragoni importanti con altri piloti brasiliani, perché ricordiamo che il Brasile aveva già prodotto piloti come Fittipaldi e Piquet. Lui è diverso, fisicamente è magro, è gracile, però quando serve sa tirar fuori i muscoli. Alla fine del campionato sarà quarto dietro a Prost, Alboreto e Rosberg. 3 anni alla Lotus, 3 anni di continue crescite, vittorie, pole position, inseguimenti, lui si fa notare a grinta e coraggio e poi ha questo stile inconfondibile, affronta le curve aggredendole, frena all'ultimo istante, porta la macchina al limite delle prestazioni, ottiene anche più di quanto ci si aspetta. Ha un feeling particolare con l'auto che guida, sono una cosa sola lui e la sua macchina. In gara i risultati si vedono, la Lotus è quasi una macchina fatta per vincere, le manca qualcosa e così alla fine McLaren e Williams continuano a dividersi la torta. Probabilmente se solo Senna avesse la possibilità di salire su una di queste due auto tutto cambierebbe. Ricordo che stavamo discutendo sui piloti migliori tra i quali scegliere il mio futuro compagno di squadra e io dissi: se volete prendere un ragazzo forte per avere una squadra forte, allora dovete scegliere Ayrton. Tutti mi guardarono in modo strano, ma io dissi: è il più adatto al team. Sarebbe stato eccezionale per la Formula 1 avere due piloti dello stesso calibro, di quel calibro, nella stessa squadra. Alan Prost è il numero uno del momento, ha già vinto il campionato del mondo 2 volte, dopo il ritiro di Lauda è la stella del circuito della Formula 1, lo chiamano il professore perché è un freddo, è un calcolatore nel senso buono, cioè sa controllare l'entusiasmo, sa gestire i risultati, è uno che è capace di vincere un gran premio, ma è anche uno che sa difendere un quinto posto se questo gli può bastare per la classifica generale. Non è uno di quei piloti capaci di trascinare le folle, di suscitare entusiasmi, per molti anche un po' antipatico, però è il migliore e Senna lo ritiene tale, quindi lo ritiene l'uomo da battere. Viene ingaggiato Senna dalla McLaren, è il secondo pilota, siamo nel campionato 88, il primo pilota è Prost, ma si capisce subito che il nostro brasiliano non si accontenterà del ruolo di gregario. Prost lo capisce, tra i due c'è molto rispetto, ma durante la gara e questo rispetto diventa competizione. La fermata di Senna, Senna si è fermato, ha sbattuto contro il guardrail, colpo di scena al 66esimo giro, Senna si ferma e Prost passa al comando. Vedete Senna che si allontana sconsolato, nonostante un ritmo di gara che sembrava blando, c'è stato qualche cosa che non ha funzionato. Siamo a Monte Carlo, Gran Premio di Monaco 1988. Senna è primo, ha anche un buon vantaggio su Prost, che è rimasto dietro, e poi va a sbattere Senna contro un muretto e lascia la vittoria al compagno di squadra. E qui in questa occasione Senna mostra il suo punto debole, è un colpo dalla verso il basso, non si dimostra freddo calcolatore come sarebbe stato Prost in quella situazione, non gestisce la sua posizione, non rallenta, non amministra il vantaggio, continua a affrontare ogni curva al limite, vuole stravincere, e nella vita a volte quando vuoi stravincere il destino ti punisce, un errore di traiettoria va a sbattere e la vittoria passa appunto al suo rivale, a Prost. Quel weekend ero arrivato così vicino alla perfezione che mi sono rilassato e ho lasciato spazio agli errori. Ho perso fiducia in me stesso e ho dovuto recuperarla piano piano, ma è servito da lezione. E dopo quell'incidente sono tornato più forte e deciso. Ma i grandi sanno imparare dai loro errori. Senna capisce che deve controllare la sua irruenza, bisogna ragionare secondo l'obiettivo del momento, che peraltro in quel frangente era la vittoria finale. Quell'anno lui vince 8 volte e vince anche per la prima volta il campionato del mondo piloti, e entra nella storia del suo paese e nella storia della Formula 1. E al secondo posto in classifica generale naturalmente c'è Prost, il compagno di squadra, il rivale diretto di Senna, e nell'89 i rapporti tra i due cominciano a farsi freddini all'interno della stessa scuderia, tutto comincia a cambiare, e ci sono ingegneri e meccanici che seguono uno dei due e non l'altro, e quindi tra le due equipe c'è una spaccatura, ci si parla sempre meno, nessuno dà consigli all'altro, insomma la squadra è divisa in due fazioni e ognuno lavora per uno dei due piloti. La McLaren non interferisce, lo scopo è il mondiale costruttori, oltre che la vittoria con uno dei due nella classifica. Il mondiale costruttori però è considerato più importante addirittura della vittoria del singolo pilota. Ron Dennis, il patron della scuderia, cerca di tenere sotto controllo la situazione, lascia aperto il confronto per quanto gli può servire. Si arriva così al Gran Premio del Giappone, siamo a due gare dalla fine, e Senna per battere Prost deve vincerle tutte e due queste gare. È in scia e adesso questo è il momento della verità per Prost. Attenzione all'attacco, stavate riuscito, e si direi che Prost aspettava solo questo, e in questo momento Prost diventa campione del mondo e Senna dimostra una volta di più di non avere la freddezza necessaria. Non era il punto nel quale bisognava attaccare. Eh sì, è una diagnosi impietosa, ma temo azzeccata. Siamo a 6 giri dalla fine. Senna tenta il sorpasso in frenata, probabilmente nel momento sbagliato. Prost non aspetta altro, chiude la traiettoria, le due auto si agganciano, si bloccano. Senna riparte con l'aiuto dei commissari, però passa all'interno della chicane, sostituisce l'alettone, viene superato da Nannini, recupera, sorpassa Nannini e vince. Un'impresa incredibile che viene vanificata a fine gara perché Senna è squalificato per averla saltata quella chicane. I giornali si dividono, da una parte qualcuno sostiene che Senna si sia dimostrato immaturo azzardando un sorpasso nel momento e nel posto sbagliato, e poi invece c'è chi è più complottista e sostiene che il capo della federazione Jean-Marie Balestre, francese, abbia forzato il regolamento per favorire il suo connazionale, cioè Prost. Insomma, quello che conta è che Prost vince il suo terzo titolo iridato in quella che sarà la sua ultima stagione in McLaren, perché per lui è già pronta a Maranello una Ferrari. Senna pensa al ritiro, ma per la fortuna dei suoi tifosi cambierà idea. Purtroppo questo cambio di idea non farà la sua fortuna personale. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ayrton Senna, il pilota brasiliano che è diventato una leggenda della Formula 1. Abbiamo raccontato la sua prima vittoria in un campionato mondiale, ma abbiamo raccontato soprattutto la rivalità con Alain Prost, fino a quell'incidente di Suzuka in cui Prost si scontra forse addirittura volontariamente con Senna, lo elimina e vince il mondiale. Il freddo e calcolatore Prost ha avuto la meglio quella volta. volta sul irruento Senna, quello che piace di più alla gente. Alla fine della stagione dell'89 però Prost passa alla Ferrari, Senna rimane il pilota principale della McLaren. Tutti vogliamo vincere e c'è soltanto un posto per la vittoria, soltanto un numero uno, non ci sono due numero uno. L'aggressività, la competitività, essendo così grande, diventa un modo di egoismo. Eh sì, aggressività, competitività, c'è un campionato che sta per riprendere, 1990, 6 vittorie per Senna, 5 per Prost, i due che si contendono il primato fino alla penultima gara, di nuovo in Giappone, di nuovo a Suzuka. Solo che questa volta i ruoli sono rovesciati, perché Senna ha 10 punti di vantaggio, Prost è costretto a vincere per sperare di giocarsi tutto nell'ultimo Gran Premio, quello in Australia. Alla partenza accade quello che i tifosi di Senna si aspettano e i tifosi di Prost temono. Senna in pole position, aspettiamo il semaforo, il commissario da bandiera verde, attenzione, ecco già il verde, pronti via, parte bene Prost. Senna si deve accodare ed è seguito da Berger, che riesce, ecco, e c'è già stato un contatto violentissimo e sono fuori gara i due piloti protagonisti. Ecco, intanto il replay, rivediamo cosa è successo esattamente. Era un'eccellente partenza quella di Prost, poi Senna si infila mentre Prost sta affrontando la curva. E a questo punto, Palazzoli, cosa vogliamo dire? Sì, chi la fa l'aspetti, succede esattamente il contrario. Chiamiamolo agonismo, chiamiamola sete di vittoria, chiamiamola con il suo nome, quella luce che illumina gli occhi dei piloti quando vogliono vincere, una luce che diventa accecante, che può oscurare la ragione. Insomma, Senna un anno dopo restituisce il favore a Prost, cioè lo sgarbo, lo butta fuori e si aggiudica il mondiale. Forse questa volta Prost è stato più debole, più insicuro, forse semplicemente dovendo inseguire ha perso parte del suo cinismo tattico e del suo amore per i calcoli. Senna risponderà in modo ironico ai giornalisti, direi beffardo: a volte le gare finiscono alla prima curva, a volte a 6 giri dalla fine, ricordando che l'anno prima a 6 giri dalla fine era stato Prost a buttarlo fuori, diciamo. Ma a questo punto l'unica cosa da fare è prendersi il titolo, voltare pagina e lasciarsi tutto alle spalle. Ayrton Senna si punta a punta, vai a puntare Ayrton Senna, depois desta curva, a punta Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Virale Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Il poltronieri brasiliano con il solito stile compassato di quei telecronisti. Comunque c'è già una nuova stagione davanti, siamo nel 1991. Senna che domina il campionato con le Ferrari e le Williams che hanno dei problemi di affidabilità. Insomma, questa volta il mondiale è vinto abbastanza agevolmente. Forse la vittoria più bella è per Senna è la seconda, quella del Gran Premio di casa, quella in Brasile, quella che avete appena sentito, con il cambio che si rompe, con lui che fa gli ultimi 11 giri usando solo la sesta marcia. Quelle cose belle, un po' leggendarie, che piacciono tanto ai tifosi. Senna che arriva al traguardo urla tutta la sua gioia nel microfono del casco e poi accosta e sviene ancora seduto dentro alla sua auto, sviene per la tensione, con i commissari che l'aiutano a riprendersi, con lui che va sul podio con le spalle bloccate dal dolore, che non riesce neanche a sollevare la coppa, con il suo volto che è una smorfia di sofferenza, e nessuno sa dove abbia trovato la forza di arrivare alla fine della gara. Lui ce l'ha la risposta, lo dichiarerà nella conferenza stampa: è stata la fede in Dio a aiutarlo, quel Dio che lui ha sempre considerato l'alleato principale per il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi. Una delle particolarità della Formula 1 è che di anno in anno il regolamento viene modificato, si cerca di aumentare lo spettacolo, però anche di garantire per quando si può la sicurezza, ma anche si cambia regolamento per consentire alle auto di montare degli accorgimenti tecnici più all'avanguardia, perché ricordiamo che la Formula 1 poi è propedeutica a tutta l'industria dell'automobile. Biennio 92-93, la Williams monta le famose sospensioni attive, quelle grazie alle quali l'auto viene continuamente bilanciata da un computer che elimina qualsiasi rischio per il pilota di perdere aderenza in curva. E in questo modo però è meno importante il pilota, diventa sempre più importante la macchina. E ricordiamoci che anche negli ultimi anni si dice ha vinto la Ferrari, ha vinto la McLaren, non si dice ha vinto questo o quello, mentre per esempio per le moto si dice ha vinto Valentino Rossi, ha vinto Lorenzo, ha vinto Marquez, cioè la macchina diventa sempre più importante. Fatto sta che in quei due anni le Williams rimangono imbattibili. E Senna fa quello che può con la sua McLaren, perché ha tecnica, ha bravura, ha sensibilità, però non c'è niente da fare. Sul gradino più alto salgono prima Nigel Mansell nel 92 e poi nel 93 di nuovo Prost, che astutamente ha lasciato la Ferrari ed è tornato in Williams. E Senna quel podio lo osserva magari dal terzo gradino o addirittura da sotto. Poi c'è l'ultima gara della stagione nel 93, Gran Premio d'Australia. Lui ottiene una vittoria, sale sul podio con Damon Hill e soprattutto con Prost, che ha annunciato il ritiro, ha disputato la sua ultima gara. I tre si abbracciano sul podio, quell'abbraccio sembra scacciare anni di polemiche, rivalità, uno di fronte all'altro. Ci sono due campioni più maturi che sanno di avere segnato un'epoca, sanno che quell'epoca sta per finire. Sicuramente la fine di una era, di Alain e mia, c'era l'atmosfera, c'era un clima di finire come è finita, perciò è finito nel modo giusto. Adesso il suo principale rivale si è ritirato. Senna ha firmato quel contratto con Frank Williams che, come dire, era già stato lasciato intuire tanti anni prima. Finalmente quella monoposto che aveva provato nell'83 diventa la sua. Lui ha preso il posto lasciato da Prost. Un altro anno nel quale lui deve dimostrare di essere il migliore, è l'anno nel quale il destino lo sta aspettando. Il falco e il gabbiano. Nel 1994 si cambia ancora, ci sono nuovi regolamenti, vengono messe al bando le sospensioni attive per riportare un po' di spettacolo all'interno del circo della Formula 1. È il rovescio della medaglia, che le auto tornano a essere un po' più instabili, più difficili da controllare, c'è un passo indietro dal punto di vista della sicurezza. E intanto Senna ha tutta l'attenzione puntata su di lui, Prost si è ritirato, lui a bordo della macchina più forte del momento, insomma non ha nessuna scusa, quel campionato del mondo lui deve vincerlo. In realtà lui sa che i problemi ci sono e come, perché la macchina non è ancora ben bilanciata, ha una linea aerodinamica sbagliata, comunque che lui non condivide, l'abitacolo è stretto e Senna fa fatica a muoversi all'interno, il volante è grande, sfrega lui le nocche sui bordi esterni, si provoca delle ferite molto dolorose e allora bisogna correre ai ripari, il volante diventa più piccolo, il piantone dello sterzo viene tagliato e risaldato con un meccanismo che lo fa inclinare e abbassare quando l'auto percorre le curve a forte velocità. Ricordate quello che vi ho detto, sto parlando di alcuni interventi umani fatti un po' all'ultimo momento al piantone dello sterzo. Intanto c'è un nuovo antagonista, è un ragazzo, un tedesco, anche lui con la faccia determinata, un freddo, però è molto forte. Ha iniziato la Benetton e nel 94 ha vinto le prime due gare, si chiama Michael Schumacher. Senna intanto nelle prime due gare è stato costretto al ritiro, insomma si arriva al Gran Premio di San Marino, circuito di Imola, con Senna che sta ancora inseguendo la sua prima vittoria. Il weekend inizia subito con due gravi incidenti. Una serie di testa coda, poi l'incidente al brasiliano Rubens Barrichello. La sua Jordan arriva veloce alla variante bassa, siamo oltre 200 all'ora. La monoposto decolla letteralmente, sfiora le gomme di protezione e si schianta con violenza sul muretto esterno, senza le ruote di destra. Barrichello perde subito i sensi, si teme il peggio, ma fortunatamente si può tirare subito un sospiro di sollievo. Il pilota sudamericano se la cava con la rottura del setto nasale e l'incrinatura di una costola. Il conto con la fortuna si paga tragicamente già il giorno dopo. Seconda sessione di prove. Poco dopo le 13 in diretta stiamo seguendo la prova dell'austriaco Ratzenberger. Ad un certo punto le immagini mostrano un pezzo dell'ala anteriore della vettura schizzare verso l'alto. La Simtek viaggia oltre 314 km all'ora senza alcun controllo e si schiaccia contro il muretto della curva Villeneuve. Il capo di Ratzenberger ondeggia, seguendo tragicamente i movimenti scomposti dell'auto. I medici tentano l'impossibile prima di introdurlo sull'elicottero per il trasferimento d'urgenza all'ospedale maggiore. Tutto inutile, Ratzenberger morirà più tardi. Ronald Ratzenberger era uno degli esordienti in quell'anno, guidava una Simtek, che era il suo secondo gran premio. Lo schianto è stato terribile, non gli ha lasciato scampo, praticamente muore sul colpo, e Senna vive quei momenti naturalmente con tensione, dolore, anche perché era molti anni che non si perdeva un pilota durante una gara. L'ultimo nell'82 era stato Riccardo Paletti, un altro momento terribile del quale abbiamo già raccontato. Però il circo della Formula 1 deve andare avanti, il rombo dei motori deve coprire tutto. Il primo maggio le auto si schierano sulla griglia di partenza. Emozione, bandiera verde, attenzione al semaforo, pronti per la partenza. Ecco, c'è stato già un incidente. Tamponamento. Palazzoli. Un brutto tamponamento. Sicuramente c'è la bandiera rossa. È la Mi. Esatto, è la Mi che è andato a urtare la vettura che chiaramente non ha visto e che era la Benetton. La Benetton di Leto non parte, la Lotus di Lamy la tampona violentemente, per fortuna solo su un lato, altrimenti anche questo incidente avrebbe avuto un finale tragico. E ci sono gomme, ci sono detriti che schizzeranno fino alla tribuna, 9 feriti di cui uno gravissimo. Si vive in un clima surreale e i commissari non vogliono, non possono fermare la gara, ci sono troppi interessi in ballo, entra semplicemente la safety car, si riparte, Senna è primo, scatta, fa subito il giro più veloce, si sente sicuro, vuole dimostrare a tutti di essere di nuovo il campione che ha già vinto 3 volte il mondiale. Passano 7 giri, la camera car riprende un nuovo giro veloce di Senna, poi la camera car stacca poco prima della curva del tamburello e poi si vede l'auto che esce di strada e va a schiantarsi contro il muro che delimita il torrente Santerno. I calcoli dicono che quando Senna esce di strada sta andando a 310 km all'ora. Arrivano i soccorsi, Senna è ancora nell'abitacolo, c'è un impercettibile movimento della testa, poi più nulla. Arriva l'elicottero, Senna viene portato all'ospedale di Bologna e viene dichiarato morto alle ore 18:40 del 1 maggio 1994, ha solo 34 anni. Ci sono indagini e controindagini, perizie e controperizie, e il risultato è che Senna è stato ucciso dal puntone di una sospensione che si è conficcato nel casco passando attraverso una fessura di pochi millimetri, quindi una probabilità su 1 milione. Era uno dei pochissimi punti vulnerabili del casco. Lui non ha contusioni, non ha ferite. La causa dell'incidente è stata attribuita alla rottura del piantone dello sterzo, di quel piantone che nella notte era stato accorciato e saldato dai meccanici per migliorare la visibilità del pilota. Una seconda indagine invece dirà che la colpa era da attribuire al fondo sconnesso del circuito che ha provocato la rottura dello sterzo rendendo l'auto ingovernabile. Forse la vera ragione nella morte di Senna è riscontrabile in quella frenesia che prende il pilota quando è seduto al volante ed entra in una forma di trance che lo estranea da tutto, che lo allontana dalla gara, forse che lo rende più vulnerabile. La morte di Senna lo ha trasformato da uomo a leggenda, un simbolo per tutto il Brasile. Dopo la sua morte, la sorella ha creato la fondazione Senna, che garantisce l'istruzione e l'assistenza ai bambini poveri del Brasile e che ha come presidente proprio l'amico rivale Alain Prost. Ormai abbiamo imparato che molti colpi d'ala che abbiamo raccontato sono colpi d'ala che sono stati pagati a prezzo carissimo. D'altra parte non è facile entrare nella leggenda, e Ayrton Senna è entrato nella leggenda e non ne uscirà più. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcogabbiano@radio24.it se anche voi conoscete qualcosa che meriti di essere raccontato, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Pipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.